Adesso io credo che dobbiamo tentare di fare una discussione comune alle due relazioni, anche se questo è molto difficile, perché ovviamente tuttavia bisogna provare a farlo. Abbiamo ancora, credo, una mezz'oretta, no? Perché abbiamo questo tram autobus che parte alla mezza di qui, alle 6:30, o se no ce n'è uno anche alle 7, quindi non c'è nessun problema. Poi c'è un avviso che devo dare, che magari do prima. Per questa sera avremmo pensato di fare una cosa conviviale, insomma, in città, che sarebbe per le 8:30, no? Quindi poi vi dico dove, ma sarà meglio forse trovarci ai due alberghi, insomma, cioè per gli ospiti dell'Hotel Trento passerò io probabilmente a prendere verso le 8, diciamo 8:15 di questa sera, e quello dell'Hotel Roma anche qualcuno passerà sempre a quell'ora lì. E dove siamo andati la volta scorsa? Sì, ma non tutti magari lo sanno, comunque chi lo sa, è l'appuntamento alle 8:30 al ristorante Due Spade, che è vicino all'università. Do queste informazioni in modo da così alleggerire un po' e nello stesso tempo. No, così siamo a posto. Un'altra cosa su cui vi prego di riflettere un momento per sapermi dire domani mattina è chi rimane qui anche per notte qui domani, insomma, tra sabato e domenica, e in modo particolare chi è qui ancora domani sera, allo scopo appunto eventualmente di organizzare un secondo raduno insieme, per stare insieme anche domani sera, ma è necessario sapere il numero delle persone, perché suppongo che qualcuno partirà. Anche se i lavori sono previsti fino a tarda giornata, come oggi, e quindi veramente pregherei nel minuto possibile di non andare via alle 2, perché sennò viene meno lo scopo. Ecco. Detto questo, adesso io appunto aprirei la discussione su queste due relazioni, che per essere state un po' ritardate, cioè messe a fine giornata, inevitabilmente rischiano di, sono state forse anche presentate dai rispettivi relatori con un leggero understatement, che invece secondo me proprio non necessitava, tanto più che si tratta di relazioni che introducono degli elementi piuttosto importanti che erano stati carenti nel resto della giornata. Quindi aprirei la discussione su queste due relazioni. Gozzi. Volevo porre una questione a Mazzolini, perché ho trovato veramente molto interessante questa trasposizione, in sostanza, da una certa rappresentazione della società all'interno delle scienze naturali, perché questo mi pone un problema. Sono presente in certi dibattiti degli strutturalisti degli anni 70, molto anche diffusi in Italia. C'è il problema che esiste tra filosofia della scienza e scienza. Cioè, intendo dire, Mazzolini infatti ha sollevato questo problema, si tratta di vedere in sostanza se questo modello dell'organismo, questo aggregato di cellule, ha effettivamente un valore di formulazione di ipotesi scientifiche, ossia in altri termini, che rapporto esiste tra questa rappresentazione modellistica assunta da Milton e la sua effettiva prassi scientifica. Perché effettivamente, per esempio quello diceva Russell, della filosofia della scienza rispetto alla scienza, la filosofia della scienza illumina il percorso, ma c'è al contrario proprio anche l'effettiva prassi, cioè la logica della ricerca scientifica che va da sé, e rispetto alla quale si danno delle interpretazioni che appartengono infatti all'ambito della filosofia della scienza. Questi dubbi si raccontano un po', filosofia della scienza e scienza, visto attraverso il rapporto tra questo modello di organismo cellulare, eccetera, e prassi scientifica di Mirko. Non so se può essere utile. No, aspettiamo di raccogliere, come abbiamo fatto finora, Krüger. Una breve domanda. Ti ho capito bene se... hai detto che Virchow è stato un organicista. Sì, in questi argomenti sì. Ma organicista normalmente vorrebbe dire un po' di più. Sì, vuol dire un po' di più. Anche nel senso... Dato che in fondo una Ma non facciamo, preferirei se fosse possibile continuare col metodo che ha funzionato per tutta la giornata, cioè senza dialogo. Esatto. Ho una domanda. Mi sembra che il concetto dell'organismo è un simbolo che conosciamo nella filosofia politica dai primi due pagine della Politeia di Platone, dove dice lo Stato è la persona scritto in grandi lettere, no? E poi abbiamo quel fenomeno che nell'Ottocento quel simbolo perde di contenuto e viene fondamentalizzato e identificato con l'organismo dell'uomo. Ma io non vedo l'attualità della tua analisi, perché questo fenomeno che è un simbolo perde di contenuto, succede spesso. Abbiamo per esempio il concetto dello Stato, c'è gente che parla dello Stato come Zustand der Gesellschaft, sai, quello è un concetto, il simbolo dello Stato ha perso ogni contenuto. O se gente parla di Recht e comprende soltanto istituzione, è anche una persa. Forse un altro esempio, quando un simbolo perde tutto il contenuto, e quando sentiamo parlare di filosofia e c'è gente che la chiama ideologia, ha perso completamente il contenuto. E io credo che col Virchow, in quell'esempio qui, abbiamo il fatto che lui conosce la tradizione di usare il simbolo organismo nel linguaggio teoretico, filosofico, politico, ma poi perde contenuto e fa l'identificazione con la fisica dell'uomo in un senso fondamentale. E io credo che dobbiamo comprendere che certamente dietro di quella riflessione c'è un'idea biologista, sì. E questo è il nuovo, non è l'uso del simbolo organismo, ma è il nuovo contenuto che lui dà. Conte. Sì, una domanda a Mazzolini ed una a Meriggi. A Mazzolini ho trovato molto stimolante, devo dire, il tuo tipo di approccio. E vorrei, se possibile, che tu ci dicessi qualche cosa. Ecco, ho l'impressione, no, in questo tuo tipo di approccio, come se il linguaggio venisse poi a un certo punto ad assumere una valenza autonoma e governasse esso, la logica sia scientifica che il discorso politico-sociale, sostanzialmente. Perlomeno ho questa impressione quando tu mi dici che determinati concetti, come quello dell'organismo, come quello di società, non sono solo concetti, ma vengono ad assumere la valenza di un modo di pensare, plasma sostanzialmente, il modo di pensare delle persone. Ecco, su questo punto. Per quanto riguarda invece Meriggi, che pure ringrazio per la sua relazione, che ho trovato molto interessante e secondo me anche illuminante per certi aspetti, praticamente inserisci una logica di continuità sia le costituzioni, se posso chiamarle così, tardo-cetuali, che le prime costituzioni parlamentaristiche, in senso proprio. Ecco, quando invece vedi un elemento di rottura, probabilmente era implicito naturalmente nelle cose che tu dicevi con l'ascesa dei partiti di massa, però insomma vorrei qualcosa a proposito. C'è Hammerstein e poi Coppola, e poi Beneluce. Ich wollte das an, was Herr Conte sagte. Zunächst zu Herrn Meriggi. Ich hätte auch gewisse Schwierigkeiten, die von ihm genannten, von Herrn Press aufgezeigten Kontinuitäten von der altständigen Verfassung zu einer konstitutionell parlamentarischen zu sehen im 19. Jahrhundert, nicht nur, aber auch von Hegel schon ganz anders verlangt wurde, beispielsweise. Also hier sehe ich doch einen großen Bruch zwischen dem modernen Parlamentarismus und der altständischen Praxis, die da ist. Es hat mich sehr überzeugt, was Sie sagten, dass im Vormärz die Parlamente nichts anderes wollen als das, was die alten Stände getan haben, ihre Steuerhoheit behalten. Aber ich glaube, man sollte terminologisch hier doch differenzieren über die Frage. Und als zweites zu Herrn Mazzolini nur eine kurze Anmerkung, weil mich das außerordentlich fasziniert, das Problem, wie man wissenschaftliche Vorgänge in ihrer Umwelt und damit auch politisch verstehen kann. Ich habe keine Antwort darauf, aber ich glaube, man kann oder man darf nicht nur vom Wort, von der Definition hergehen, sondern muss immanent die Wissenschaft selbst befragen. Nicht wie Virchow Pathologie definiert, sondern was er in der Pathologie macht, müsste sozusagen Ausfluss des Treibens. Ich gebe zu, das ist außerordentlich schwierig. Das haben Sie auch gesagt. Coppola? Una domanda a Merici. Più veloce c'è il concetto di questo aumento piuttosto notevole, spaventoso, di distribuire la fiscalità, della pressione fiscale. Io ho l'impressione che questo aumento della pressione fiscale sia più apparente che reale, nel senso che in effetti c'è, ma non è così ampio, in quanto di fatto, se noi guardiamo i bilanci dello Stato, appare che lo Stato ha un aumento delle entrate fiscali, recuperando però quel tipo di fiscalità che era stata precedentemente appaltata. Noi questo discorso lo vediamo già nella seconda metà del Settecento, lo vediamo ancora di più dopo i processi, i processi di trasformazione istituzionale, quella forte. Ora, il problema è che nell'organizzazione dello Stato la fiscalità diventa un fatto proprio, mentre prima era delegato proprio ai concetti. Che è aggettiva, no? Attraverso tutta una serie di sistemazioni, di monti, di organizzazioni, di luoghi, eccetera, eccetera, che detenevano di fatto la leva fiscale nel momento dell'esecuzione. Nell'accentramento ovviamente si verifica una massa nell'entrata piuttosto notevole che ci dà l'idea di un aumento della fiscalità, però ripeto, più fittizio che più apparente che reale. In una situazione di questo genere, credo che forse per confermare il discorso di Morini sia più interessante vedere le altre forme di entrata dello Stato, per esempio del debito pubblico, per vedere la mediazione di quel discorso che Morini dice. Su questo mi chiedo se effettivamente ha notato un'attenzione particolare di questi gruppi, diciamo così, che ricevono anche i parlamenti, eccetera, verso quest'altro tipo. Grazie. Beneduce? Io volevo chiedere a Mazzolini quando in quali casi l'analogia, il discorso figurato, la metafora ha all'interno di una scienza una funzione conoscitiva, un effetto propriamente conoscitivo e non soltanto appunto una funzione così di figura retorica, di figura così di richiamo suggestivo. E poi se quale rapporto c'è secondo te tra questo discorso delle metafore, delle analogie e poi quale effetto hanno queste metafore, queste analogie sugli specialisti, sui saperi e sulle sulla distinzione tra le discipline, se questo costa in qualche modo, costituisce in qualche modo una sorta di interlingua, diciamo, delle discipline, un livello superiore nel quale i vari saperi, poi in qualche modo ai quali è possibile ricondurre i vari saperi, ecco, questa è un'ipotesi, oppure se, ecco, quale effetto in ogni caso comporta nei confronti dei saperi, nei confronti delle specialisti. Certo, ci sono adesso Fioravanti, Cardini e De Santis. Sì, io volevo chiedere semplicemente a Mazzolini informazione. La voce della tomba. Compari sul proscenio. Approfitto per salutarti pubblicamente. Tu parla della trasformazione, mi pare del concetto di organismo, no? Ha solo accennato, evidentemente, per ragioni di brevità, nel corso del Settecento, mi pare, non pare. Sì. Ecco, io vorrei sapere da lui, solo una domanda, se questa trasformazione del concetto di organismo, se si può affermare che questa trasformazione conduce progressivamente il concetto di organismo a contrapporsi a quello di macchina, se esiste una direzione di questo tipo, perché io presente nel costituzionalismo ottocentesco proprio questi due valori che questi due concetti che diventano valori per i giuristi, ad esempio, ispiratori di soluzioni molto diverse, no? E direi addirittura opposti. Questo si trova, perlomeno per quanto riguarda i giuristi, addirittura fin nel cuore del Novecento. E mi pare, visto che il seminario è di storia costituzionale, che la parola Costituzione venga sempre più attratta nell'ambito della parola organismo, cioè che in qualche modo la parola meccanismo importi una soluzione non costituzionale, perché è frutto di una serie di mediazioni meccaniche. Ora chiedevo confermare questo primo. E secondo luogo chiedevo se dal punto di vista tuo, che io lo conosco assolutamente, cioè interno alla tua disciplina, filosofia della scienza o altro, questa contrapposizione ha una ragione d'essere del tipo che Gozzi chiedeva, cioè in relazione a poi l'attivazione della scoperta scientifica. Questo mi interessa. Cardini. Sì, io sono, interessato al raffronto che Merigi ha fatto tra il fiscalismo di fine Settecento, primo Ottocento, e le spiegazioni intorno alle caratteristiche della Costituzione, della rappresentatività che in quel periodo si facevano, il raffronto, dicevo, con questo periodo e l'Italia dopo il 1870, e mi chiedo appunto come sia possibile, ecco, un raffronto di questo tipo, sapendo che sull'Italia post-unitaria, soprattutto dopo il 1870, sia l'aspetto delle classi sociali, sia anche l'aspetto della pressione fiscale dello Stato, è pressoché un terreno tuttora da arare sul piano degli studi. Esistono fonti, ma sono pressoché disattese, ecco. E quindi no, di fatto se ne parla molto della classe, soprattutto della classe dirigente, della borghesia italiana post-unitaria, ma non ci sono studi, tutti ne parlano, tutti auspicano che si siano fatti questi studi, ma non ci sono studi in proposito che ci facciano conoscere questo aspetto, né studi positivi anche sul fiscalismo, sul sistema tributario e sul sistema fiscale italiano, appunto post-unitario. Quello che si conosce è che il dibattito sul parlamentarismo e sul trasformismo, su questi aspetti qui, è simile a quello non tanto della fine Settecento, primo Ottocento, quanto a quello che era corrente, era frequente negli altri paesi europei di quello stesso periodo e soprattutto della Francia, come questo è del resto noto, ma per il resto non è che si conosca, a mio avviso, molto. Quindi volevo sapere un po', mi sembra che, ecco, un po' l'affermazione Merigia necessiti, non so però lui se è d'accordo su questo, di maggiori approfondimenti concreti. De Sanctis, Alazzacane e Schnur. De Sanctis. La prima era proprio per curiosità, che ruolo gioca il concetto di vita, che è un concetto così caratteristico di un determinato periodo di tempo, soprattutto nella cultura tedesca, alla fine del secolo XVIII. Il concetto concetto di vita, quindi che rapporto esiste tra vita e organismo, proprio in rapporto a quello che diceva Mazzolini sullo sviluppo del concetto di organismo durante il decennio. Per quanto concerne il linguaggio, io penso che esso abbia una funzione anche costitutiva e quindi la metafora molto spesso abbia una funzione euristica oltre che espressiva, soltanto espressiva. E che poi volevo chiedere se era anche, se poteva ad un livello diverso, completamente diverso, se, che importanza poteva avere in questo scambio tra il piano della cultura politica e il piano della cultura scientifica, anche un po' la compattezza del sapere che esisteva ancora in Germania in particolare all'inizio dell'Ottocento e quindi una formazione di base culturale estremamente compatta tra la sfera del sapere scientifico e la sfera del sapere storico, per così dire, in linea generale. Mazzacane. No, io brevissimamente, quindi anche con qualche grossolana semplificazione, che la metafora biologica o medica o scientifica in generale abbia avuto nel corso dell'Ottocento una funzione appunto non soltanto descrittiva o decorativa o altro, ma anche proprio costitutiva, anche una funzione epistemologica nella fondazione di diversi saperi, credo che questo sia abbastanza, si possa dare abbastanza per certo, cioè i prestiti dalle scienze naturali ai saperi sociali. Nel campo della storia giuridica gli esempi sono numerosi, è inutile starli a ricordare, ma vanno anche in altre direzioni, nella storiografia, basta pensare la fortuna che ha avuto per esempio in Italia Saint Germain, che fa una ricostruzione della società arcaica romana utilizzando proprio in chiave proprio esplicativa di comprensione, non soltanto di descrizione, una serie di fenomeni. E poi, per non parlare ovviamente a discipline più vicine, ai primi tentativi di antropologia, c'è tutto il problema dell'area lombrosiana, per esempio, che andrebbe pure presa in considerazione perché è stata un po' sempre trattata male dalla storiografia e invece forse meriterebbe di essere un po' riconsiderata. Le questioni che volevo porre, le domande che volevo porre sono due. Una, che Mazzolini ha percorso la strada più difficile, è quella su cui veramente non sappiamo nulla, cioè l'inverso, cioè il prestito. E su questo appunto volevo anch'io saperne di più circa poi il ruolo che questi prestiti, che queste metafore svolgono poi all'interno della produzione del sapere di patologia concreto sul quale Pirco opera. E la seconda questione è la sua valutazione di una polemica che poi si apre certamente in Italia sul finire dell'Ottocento, che sostanzialmente, dico adesso molto, molto schematicamente, molto sommariamente, che si apre con, diciamo, rappresentando questi scambi tra discipline come un fenomeno deteriore di eclettismo, e invece viene condotta una serrata battaglia, questa avviene nell'ambito, ancora una volta, delle discipline giuridiche, ma credo anche altrove, a favore invece di una fondazione degli specialismi scientifici, per esempio specialismi giuridici, proprio come risposta ad un fenomeno che viene giudicato deteriore di contaminazione. È un fenomeno che merita ancora di essere studiato, ma certo nel dibattito di tardo Ottocento c'è a un certo punto questo tipo di atteggiamento. L'intreccio tra i saperi genera eclettismo, genera contaminazioni, genera confusioni, non svolge un ruolo di crescita dei saperi. La strada da imboccare è quella invece della fondazione rigorosa e autosufficiente delle discipline attraverso la strada dello specialismo scientifico. Herr organizistischen Metaphern die traditionell eine konservative Funktion. Wir erinnern uns daran, dass bei Descartes der Staat als Maschine auftritt. Das war die Rechtfertigung des Absolutismus gegenüber der vorangegangenen Verfassungsphase, hat also einen reformatorischen oder revolutionären Funktion. Kann man nicht Virchow, man weiß, welche politische Rolle er gespielt hat, in welcher Partei er war, in seiner Metapher ein Instrument sehen, um die konservative Staatsorganismus-Metapher zu überholen mit einer progressiven? Ohne Zweifel. Das ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Würde deswegen, sì, per questo lui combatte la. La Sperti? Ja, ich will nur sagen, wenn die anderen Teilnehmer nicht mal diesen historischen Vergleich mitziehen würden, wäre es immerhin eine wichtige Erkenntnis in der Sammlung sozusagen von Organismus als Metapher, denn nach meinem Wissen ist also Virchow oder überhaupt diese Denkweise unter diesem Aspekt noch nicht gesehen worden. Das wäre, glaube ich, schon ein wichtiges Ergebnis, dass eine alte Tradition eben schon von der Antike her kommt und dann durch eine rationalistischere Metapher sozusagen ersetzt werden soll. Er übernimmt die Figur, aber schiebt ihr einen progressiven Inhalt hinein, weil er merkt, dass er gegen die staatsorganizistische Theorie polemisieren muss, um sozusagen in dem Umfeld der Zuhörer die richtigen Verbeugen zu finden. Aber er dreht so einen Wechselbaum sozusagen, indem er sagt, das ist ja eine altmodische Geschichte, die ist vorwissenschaftlich. Vorwissenschaftlich. Das ist sozusagen ein alter Glaube, der übernommen worden ist. Denn bei Descartes ist die Funktion dieselbe. Von Karl Schmidt gibt es einen Aufsatz von 1937 zum Descartes. Ja, ja, als Mechanismus, als Mechanismus. Ich glaube, eine der wichtigsten Arbeiten natürlich, von ihm, die dann später nach diesem Krieg von dem Amerikaner von King 1949 über in einem Doktor-Thesis auch ausgearbeitet worden ist, und zwar ohne Karl Schmidt zu kennen. Er hat das viel breiter ausgeholt und der Specht, der Philosophiegeschichte in Mannheim, hat dasselbe bei Descartes gesehen. Also nicht, wie manche meinten, das sei eine konservativ-monarchistische Theorie gewesen von der Kraft der Staat als Mechanismus, sondern das war eine fortschrittliche, die vor allem die Kompetenzen und Niedergang der Stände gegenüber dem königlichen Herrscher begründen sollte. Vielen Dank. Orlandi ancora, sì, poi Gherardi. Benissimo, una Mazzolini, e cioè se è riuscito a ricostruire il modo in cui questo concetto di metabolismo viene mutuato da Virchow, cioè se per esempio per via diretta, cioè attraverso le testi ai quali tu ti riferivi o anche altri sono riferiti prima, oppure se attraverso, diciamo così, la quella che si potrebbe dire circolazione sociale delle idee o di certi modi di pensare. Perché una cosa o l'altra potrebbe appunto avere un'influenza diversa in un senso o un altro. La seconda domanda è a Mierigi, cioè se la continuità delle forme costituzionali alle quali ti riferivi può essere intesa nel senso che in cui la intende Arno Meyer, cioè non solo come forma di continuazione del dominio delle vecchie classi dirigenti, addirittura come visto nel suo libro fino alla prima guerra mondiale, ma non solo quindi una prosecuzione sostanziale del potere, ma addirittura appunto una continuazione anche delle forme istituzionali. Gherardi. È una domanda, ma più che altro un appoggio alla tesi di Merigi, per quello che posso dire io. Cioè, è vero quello che Cardini dice, che non sappiamo molto sulla borghesia unitaria, tutti nel posto unitaria, ne sottolineano l'importanza di andare a vedere in realtà i vari blocchi, però da vicino. Però una certamente chi studia qualcosa dell'Italia e dell'Italia, credo che il primo fenomeno che constati sia proprio la consapevolezza che questi stessi, cioè che le classi dirigenti stesse post-unitarie, avevano della diversità degli interessi regionali dei vari componenti che si trovavano nel Parlamento, rappresentavano. Esempio, che a questo si traduce anche nella battaglia culturale, tu lo sai benissimo meglio di me, no? Perché l'hai messo in evidenza anche tu nel tuo libro. No, Ferrara accusa il Lombardo-Veneto, la chiama la scuola Lombardo-Veneta. Poi gli storici dicono che in realtà non c'erano solo i Lombardo-Veneti, ma se poi andiamo a vedere più da vicino vediamo che molti che apparentemente non sono Lombardo-Veneti poi magari lo sono un po'. Esempio, Minghetti. Minghetti non è Lombardo-Veneto, però è un deputato di Colonia Veneta. E se tu vai a vedere la corrispondenza che lui ha col suo collegio, insomma, cioè dopo poi ti spieghi molto da vicino come mai lui vada a far parte della scuola Lombardo-Veneto, si avvicina alla scuola Lombardo-Veneto. Altro esempio famoso, i toscani, la costellazione toscana, cioè tutti qua. E per cui effettivamente io credo, cioè l'impressione che almeno ho io, attraverso le mie ricerche, è che perlomeno nell'Italia post-unitaria, finché dello stato monoclasse, per dirla con una categoria ormai in uso nella storiografia, sia effettivamente vera la tesi di Meriggi, vera, insomma, serva molto la tesi di Meriggi, cioè non c'è rottura, in realtà questi rappresentano da vicino i loro colleghi, la loro classe primis, ma il loro collegio in particolare, e ci sono delle differenziazioni fortissime interne proprio su questa base. Dopo non so qual è il momento di rottura, ma sicuramente se queste condizioni sussistono vale questo schema. Altri interventi o no? Ci sono 9 ore che lavoriamo, questo bisogna che sia chiaro alla memoria di tutti. 9 ore. No. Allora io darei la parola a Meriggi per un eventuale commento sopra le cose e poi subito dopo a Renato Mazzolini, a meno che Renato Mazzolini non intendi pensare stanotte sopra le cose e rispondere domattina. Questa è la tua scelta. Meriggi. Vediamo se riesco un po' a raggruppare una serie di domande. Una risposta unica o comunque con un prendo unico. Beh, meglio è stata la Balestreria da quel punto di vista lì. E una cosa mi piacerebbe ribadire o comunque segnalare, io non penso tanto a una continuità formale di istituti o di tecniche di rappresentazione o di rappresentanza. E in questo senso mi riferisco sia a quello che ha detto il professor Hammerstein, sia a quanto diceva Orlandi, quanto piuttosto alla perduranza, alla persistenza di un ceto sociale che si definisce in quanto tale e che pur mutando, diciamo, di categorie giustificative del proprio potere, non cambia in quanto ceto. Ora, il fatto che passando negli Stati Unitari, insomma, i parlamenti degli Stati Unitari sono evidentemente sì qualcosa di ben differente dai Landsteg o comunque dalle rappresentanze cettuali d'anzian regime ancora del Colbert. E ovviamente si gioca un po' la provocazione, sottolineando unicamente aspetti di continuità piuttosto che aspetti di differenza. E a me interessava sottolineare la continuità. Soprattutto perché sono convinto che sia in Italia sia in Germania la frattura epocale della unificazione o comunque dell'aggregazione in unità statali più vaste venga un po' assunta, spesso in maniera critica, come frattura epocale anche per un'altra serie di questioni che probabilmente invece sono state toccate in maniera sicuramente diversa o comunque mediata dal fatto che Italia e Germania si siano unificate. Interessava soprattutto sottolineare la continuità delle classi dirigenti, che ovviamente potevano darsi forme di rappresentanza nuove, pur restando esse sostanzialmente centrali, che ovviamente potevano aprire anche le proprie barriere di ceto ad uno spazio esterno leggermente più ampio. Il tutto ovviamente però in una prospettiva di rinnovamento nella continuità, insomma era questo il punto essenziale. E in questo senso sì, la tesi di Arno Meyer funziona anche in questa direzione, naturalmente, un castello che si pone un po', anche se appunto io non penso tanto alla continuità delle forme, in cui pure trovo analogie che mi pare che meritano di essere sottolineate, insomma, dal punto di vista sostanziale. Penso più all'unità e alla perduranza del ceto, comunque della classe, del ceto agrario essenzialmente. In questo senso, il punto di cesura, allora, riferisco alla tua domanda, è effettivamente la nascita dei partiti di massa, che significa comunque anche una modificazione strutturale della società, insomma, non delle forme parlamentari, che dal punto di vista dell'ingegneria istituzionale in fondo si muovono a ritmo più rallentato, ma essenzialmente un mutamento della società che le esprime. E per partito di massa o comunque poi per interesse che possa essere diverso, interesse da rappresentare che possa essere diverso da quello dell'antico ceto agrario, non penso soltanto alle corporazioni o comunque ai raggruppamenti delle classi subalterne, oltretutto. Penso proprio anche a un diverso formarsi secondo categorie riferite al mercato, quindi all'ottica anche sovraregionale, di quella che non vedo comunque come una classe radicalmente nuova, di quello che vedo come una nuova forma di esercizio del potere economico da parte di una classe che ormai rimane la stessa, che modifica la propria forma di dominio della società e di conseguenza anche nelle istituzioni parlamentari o comunque negli istituti di rappresentanza. Questo così, con questo spero di aver risposto appunto al professor Hammerstein e a Orlandi. E per quanto riguarda invece Gardini, si vede che sono stato confusionario nell'esposizione, nel senso che riferendomi all'Italia postunitaria mi interessava essenzialmente mettere a fuoco il punto Parlamento. Non ho fatto più accenni al problema fiscale dell'Italia postunitaria, di cui peraltro non so niente, quindi non mi so dire mai. So che se ne sa poco in generale, ma io in particolare non so proprio nulla. E il punto che mi interessava era appunto, diciamo, il modello politico piuttosto che il modello fiscale. E la domanda che mi mette più in crisi è quella di Coppola, e nel senso che effettivamente il fatto che la fiscalità napoleonica e post-napoleonica possa essere più una questione di apparenza piuttosto che di sostanza è un dubbio ovviamente fondato, anche se mancano ricerche che ci possono rafforzare in tal senso. Ora, mi pare un indizio interessante però il fatto che alla fine dell'età napoleonica il lamento contro il nuovo tipo di fiscalità è assolutamente diffuso ovunque. E non voglio però aiutarmi più che tanto anche nella linea che ho sostenuto prima, perché posso capire che questo lamento può essere una cosa anche strumentale in fondo da parte proprio dei vecchi centri dirigenti che erano stati emarginati e che volevano in un certo senso farsi belli, si facendo dimenticare il fatto che in età rivoluzionaria ad esigere le tasse erano stati loro piuttosto che lo Stato. C'è però un elemento di struttura che mi pare non possa essere sottovalutato, vale a dire la crescita effettiva degli apparati di Stato, della burocrazia, delle strutture formali del potere, dall'età napoleonica in avanti, dappertutto. E che questo fosse finanziato in parte con l'aumento del debito pubblico, è vero, indubbiamente. Che però ci fosse anche un riverbero sul piano della fiscalità diretta, credo che sia almeno ipotizzabile, anche se statisticamente non è dimostrabile. Sul debito pubblico in particolare io non ho conoscenza diretta di studi che abbiano trattato questo argomento o comunque la relazione tra l'aumento del debito pubblico e un eventuale nuovo dislocarsi dei vecchi centri di ricerca in forma contrattuale rispetto ad uno Stato che faceva l'abuso del debito pubblico. Però saltando, non dico di pari a frasca, però diciamo da area territoriale a area territoriale, leggevo proprio poco tempo fa un volume dedicato allo sviluppo del sistema amministrativo inglese, quindi ci troviamo in un'area già molto diversa, tra 1770, 1780 e 1870. Ecco, c'era questo fatto interessante che sono stato scritto, vale a dire il Parlamento inglese, in fondo, si comincia, vale a dire si tramuta o tende a tramutarsi da assemblea nobiliare a carattere regionale, a corporazione invece politica maggiormente interessata al controllo ministeriale, per esempio, comunque al controllo dei poteri che venivano esercitati in precedenza unicamente dal monarca, proprio in coincidenza con l'aumento del debito pubblico, vale a dire è in un certo senso un fattore scatenante, il dilatarsi dell'area in fondo di spesa comunque, perché la spesa presa o l'aumento reale, anche se poi non viene, diciamo, risolta unicamente con l'aumento fiscale. Il trattarsi di un'area di spesa indubbiamente motiva anche diversamente i deficienti dirigenti a rapportarsi rispetto alle loro fonti di potere, a intervenire, a chiedere maggiori risorse. Raccomando a tutti di staccarmi, perché tanto l'autobus delle 6:30 è partito. Noi abbiamo ancora 20 minuti comodi per sentire Mazzolini. Io cerco di fare anche meno. Dunque, no, innanzitutto grazie per le domande, mi è molto difficile risponderle a tutte per vari motivi. Il primo perché non le so prendere, cioè non so scrivere per bene tutte le domande. E il secondo perché ad alcune occorrerebbe effettivamente parecchio tempo. Vorrei chiarire un punto. Mi è stato sollevato da più parti la questione, nella sua ricerca pratica oppure nella patologia, a cosa è servita, Virgo, questa analogia? Cioè, è stata veramente euristica? Ha avuto valore conoscitivo? Qualcuno mai chiede? Dato che la mia professione è quella di storico della scienza, è chiaro che il primo punto che uno tende a dimostrare è questo, cioè solo in quanto ritenuto che fossero significative e fondamentali nello sviluppo appunto delle sue concezioni e anche nel fare alcune scoperte, ho scelto queste analogie. E questo, e quindi in genere, se l'analogia non è significativa, è significativa in quanto, per me è significativa in quanto riconosco che nei suoi lavori sono state euristiche. Spiegarvi perché sono state euristiche è un po' difficile, perché dovrei veramente illustrare, uno, che cos'è la teoria cellulare dal 39 al 61 e, in secondo luogo, qual è il panorama della patologia del suo tempo. E questo veramente non ritengo di essere in grado di farlo, perché è una teoria che si sviluppa e che cambia costantemente, di anno in anno, per cui io seguo Virgo, articolo per articolo, con tutta la letteratura dei teorici e degli scienziati che si occupano di teoria cellulare, anno per anno, e quindi dovrei far vedere gradino per quale motivo allora lui arriva prima, tanto per usare questa espressione dell'arrivare prima o dopo in certe scoperte. Però un punto forse si può dire. C'è un famoso aforisma di Virgo che è omnis cellula a cellula, cosa che impariamo anche alle medie. Cioè, ogni cellula ha un'origine da un'altra cellula. Ora, quando questo aforismo è espresso nel 55, quando Virgo, cioè molti anni dopo la prima formulazione della teoria cellulare, la prima formulazione, appunto, ricordavo, era del 38-39, la teoria citogenetica, cioè come si costituisce la cellula, era diversa, espressa nei suoi termini più banali e anche offensivi nei confronti di coloro che la formularono, cioè Schwann in particolare, è che la cellula si sviluppa da una sostanza amorfa dove prima si sviluppa il nucleo ed è sempre da questa sostanza amorfa che si sviluppano le singole cellule. Ora, avere un'idea dell'origine delle cellule da una sostanza amorfa, che praticamente sarebbe vario tessuto che loro non riconoscevano ancora come tessuto cellulare specifico, quella di Virgo dire no, la vita, quindi anche la trasmissione della vita, dipende sempre da un'altra individualità, cioè l'individuo non nasce in sostanza, questo è l'elemento euristico di lui. L'individuo nasce da un altro individuo nella società comune, questo è l'elemento fondamentale. Come fa a nascere da una roba così amore? Questo era l'elemento fondamentale. Quando lui fa per lui l'analogia, prendo da altre analogie, perché queste seguono per tutta la sua carriera, Meine Personen sind die Zellen, oppure questa è del 1880, sempre a scienziati. Queste citazioni non le trovate, tranne una, in pamphlet di carattere politico, ma in riviste super specializzate. Oppure Die Zelle ist so guter eigentlich Bürger, der berechtigte Repräsentant der einzelnen Existenz, wie jeder von uns beansprucht. Es ist in der menschlichen Gesellschaft, in dem Staat, wie er eben konstituiert ist, zu sein. Ma insomma, sono cose. La massa, cioè il numero di queste citazioni, di queste analogie, rappresenta di per sé un sintomo significativo, primo. E, come dico, nella mia ricostruzione, che per forza deve essere una ricostruzione della teoria cellulare, di tutta la teoria cellulare per quei vent'anni, che vi dico è veramente noiosa, cioè non noiosa, è difficile, è obiettivamente, tecnicamente difficile anche, cerco di seguire appunto il valore ovidio. Per adesso, secondo me, l'ha avuto. Certamente il problema è vedere anche i casi di dire, ma come mai, per esempio, Remarque, un grande scienziato suo contemporaneo, perviene a cose analoghe, e noi sappiamo che proprio di politica non aveva alcun interesse. Certamente. Ecco, quindi io analizzo anche quelle cose lì, quindi, cioè le cosiddette controprove, perché uno può dire, ma insomma, uno ci poteva arrivare anche senza un elemento politico, però io qui ho forti elementi per dire che ha avuto una funzione, poi nella patologia addirittura ancora di più che nella stessa teoria cellulare. Però lì non entro perché veramente sarebbe, non riuscirei a sintetizzare ulteriormente. Mi si è chiesto quando in genere un'analogia ha una funzione conoscitiva. Io qui vorrei anche dire un'altra cosa, che, e quindi qui parlo anche degli epistemologi della scienza. Io sono uno storico della scienza e questo tengo molto a questa distinzione, e non un epistemologo né un logico né un linguista nel senso tradizionale, però sono andato proprio in questi ultimi anni a studiare molti testi che si sono occupati dell'analogia. In genere si studia la struttura dell'analogia, che aspetto ha, e in genere la conclusione degli epistemologi, che a loro ovviamente fa comodo, è che l'analogia non ha alcuna funzione conoscitiva. Ma appunto questa è la grande distinzione che tra uno storico e un, per forza, uno che guarda semplicemente il testo così com'è. Ma dal momento che io sono interessato a come si perviene a una conoscenza, non alla conoscenza come gli è data, come si dice che è la conoscenza, come si perviene, allora io studio proprio quell'aspetto lì, cioè l'analogia, perché qualunque scienziato, ma grandissimo fisico della metà dell'Ottocento, scrive una apologia dell'analogia e sostiene nessun fisico pensa senza analogia. Certamente lui, Maxwell, è noto per le equazioni differenziali di Maxwell, che sono una roba in cui apparentemente le analogie non esistono. Certamente il testo scientifico nella sua forma scritta finale lo vieta, ma non vieta certamente al pensatore di pensare analogicamente. E Maxwell in quel testo, spesso citato oggi anche dagli storici della fisica, i quali si devono ricredere, che in fondo gli epistemologi ci hanno dato una visione molto appunto di quello che è il testo così, cioè, però non ci permette di capire. Ora, dal momento che io sono interessato a un'influenza, è chiaro che sono interessato a un divenire, a un processo in qualche modo, cioè a come si acquista una conoscenza. E quindi il ruolo, scusate, mi ripeto probabilmente, il ruolo che, e questo era il nucleo del mio discorso, il ruolo che possono avere modelli di una derivazione sociale molto tenue, ci sono tante mediazioni, può essere un concetto forte, per esempio secondo me in Wirth abbastanza, proprio perché c'è una critica del concetto generale di Staatsorganismus, anche in queste citazioni ce n'è una molto bella dove dice alla Nazionale, Versammlung a Francoforte, i nostri Staatsmänner non capiscono assolutamente che cosa sia un organismo, per questo ne parlano così, quindi non capiscono cosa sia lo Stato, che per lui è, dato che è un progressista, è appunto costituito da singole individualità che sono le leggi di queste singole individualità che vanno soprattutto sviluppate. Però volevo parlare di alcune altre cose. Un attimo sulla storia del concetto di organismo, molto importante, molto difficile, su cui non ce n'è nulla di decente oggi, dal mio punto di vista. L'unico lavoro molto buono è di Robin, che è un lavoro del 1865-67, pubblicato in Francia, ed era un grande biologo, ci ha scritto sopra 200 pagine, l'unica cosa decente. Sono apparsi però molti libri sull'organicismo e su queste cose. Come aveva capito già Robin, quindi io in pratica non ho capito niente, ho riscoperto bibliograficamente quest'opera che mi ha un po' demoralizzato. Dunque, sicuramente organismo, all'inizio, innanzitutto anche la questione di Platone, io vorrei vedere, a proposito, le traduzioni di Platone, di Aristotele che noi abbiamo, per cui interpretiamo Platone e Aristotele come organicisti ante litteram, sono traduzioni dell'Ottocento e del Novecento, dove la mentalità è cambiata. Voi portatemi, io non sono un grecista, però portatemi i testi platonici e aristotelici dove venga usato il concetto di organismo come un elemento vitale, e dico, ho sbagliato tutto, lascio l'Accademia, insomma, lo dico. Però portatemeli. Io lo nego, ecco, io non l'ho mai trovato. Non l'ho mai trovato, ma bisogna, in quei testi. Quindi, tutta questa concezione, per cui anche nei grossi manuali a volte si vede, ma Platone, Aristotele erano una gran pandora, cioè è perché quelli dell'Ottocento, del Novecento, pensano con questa roba in testa, secondo me, ma questa ovviamente può anche essere una sfidata. Importante dal Settecento. Quello che succede, e qui c'è un punto che anch'io non sono riuscito a fare, è questo. Forse ho la citazione di là e la posso leggere domani mattina da alcuni dizionari del primo Settecento. Primo Settecento è equivalente al meccanicismo. Fine Settecento noi abbiamo i termini organisation, molto diffuso, corpo organisé è corpi organizzati, pensate a Spallanzani, Bonnet, corpo organisé continuamente, siamo nel 1770, 80, 90. E poi, mentre nei dizionari incominciano ad apparire le voci organisation molto di più, ancora la voce organismus appunto non appare. Questa è una cosa, questa è una ricerca quantitativa, scusatemi, sui dizionari, qui io non, forse sarebbe più facile darvi una diapositiva, ma non ho ancora messo giù tutte le voci dei dizionari. Grosso modo appare nei dizionari del primo Settecento molto spesso, poi il termine organismo, poi non appare più, e poi riappare nei primi dell'Ottocento. Ma prima appare moltissimo il termine organizzazione. Questo tanto in genere. Comunque sta di fatto che organismus è un termine di uso impressionante, dico tutto, nelle teorie estetiche, nelle teorie letterarie, eccetera, eccetera. Dovunque. C'è addirittura un autore, spero di, dato che io non ho memoria, che scrive un testo, scusate, Friedrich Ludwig Lindner, 1834, Über den Begriff des Organismus als allgemein herrschend in den drei Naturwelten, wie in der Geschichte und Politik. Stuttgart, 1834, tra parentesi a Stoccarda non c'è questa edizione, l'unica che ho anche da una ricerca fatta in Germania attraverso il loro sistema di prestito, non si trova, questa è del British Museum. Però è un testo scarsamente significativo, tranne nel fatto della consapevolezza del termine che viene usato dovunque. Termine che viene usato dovunque, che cosa vuol dire? Allora, quando uno studia Hegel, quando uno studia la logica hegeliana, queste cose qui, se uno mi dice a un certo punto, se uno mi spiegasse la logica hegeliana dicendo che una logica organica, così come secondo me lui la pensava, mi facilita tutto lo studio, anche al liceo, cioè io capirei Hegel molto prima se lui pensa la logica come una cosa organica, no? Credo che basti solo questo a illuminare uno studente. Dovrebbe spiegare? Che cosa vuol dire? Se è il corpo di Dio o il corpo terrestre? Sì, sì. È il problema quello. Comunque. No, poi volevo dire un'altra cosa, vediamo. Sì, certamente la contrapposizione con macchina, ovviamente anche il termine di macchina viene molto meno utilizzato, sia nelle discipline biologiche, sia in quelle umanistiche, quindi Staats, Machine, eccetera, eccetera. A fine Settecento si vede una diminuzione di questo termine. E questo in qualche modo vorrà pur dire qualcosa, questo mutamento della terminologia. Credo che... Ecco, alla domanda che ruolo gioca il concetto di vita tra fine del Settecento e primo Ottocento, in genere adesso non saprei rispondere, perché... Ecco, a proposito anche questo, linguaggio come valenza autonoma, una persona ha chiesto, e poi Virgo da dove lo prende? Lo usavano tutti, il termine lo usavano tutti. Io ho fatto una ricerca, ho tirato fuori i nomi, se volete ve li dico, di quelli che sono gli amici di Virgo, la cosa è un po' difficile, gli amici di Virgo nel periodo 45, appunto 61, cioè chi frequenta. Però voglio dire, quali autori ha studiato? Certamente il problema è sapere quali libri ha studiato, però voglio dire, è un termine talmente diffuso, faccia talmente parte del patrimonio, e questo è un concetto anche importante, del patrimonio metaforico comune. Noi usiamo un patrimonio metaforico comune. Se io a voi dicessi, per esempio, ape re, a voi significa qualcosa? Pochissimo. Se dico ape regina significa molto di più. È una metafora anche quella, e però è chiaro che se io avessi detto ape regina all'inizio del Seicento, nessuno avrebbe capito, perché tutti allora la chiamavano ape re, perché non sapevano che appunto l'ape più grossa era una femmina. Quindi quando a un certo punto Schwammerdam ha scoperto le ovaia nell'ape regina, nell'ex ape re, viene chiamata ape regina. Dove la cosa importante è che in questo appunto campo metaforico l'elemento del linguaggio, come lo chiamate? Perché di chiamarla re, regina, chiamare servi nella descrizione delle api? Cioè, se voi considerate che il problema mio fondamentale è quello di vedere in essi le possibili influenze, uno prima di tutto le cerca a livello di linguaggio, perché o l'altra risposta è non ne sappiamo nulla, e vabbè, questo è decisissimo, oppure da dove incomincia? Sarebbe interessante avere un suggerimento diverso, premesso che a me non interessa la direzione, questo tutti sappiamo che sono motivi politici, economici, che fanno sì che alcuni chimici si dedicano di più a certe ricerche che ad altre, ma questo non influenza generalmente la teoria. Prego di fermare. Grazie molto, grazie a tutti.